molto soggettiva, quindi si parte dal logorio spesso che non è avvertito dal soggetto, ma è sempre dannoso. È un disturbo che può provocare spossatezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, l'insonnia, l'ansia. E ce lo dobbiamo ricordare oggi, perché? Perché oggi è il 7 novembre ed è la giornata mondiale della consapevolezza dello stress. Ma lo sapete cosa hanno scoperto gli esperti della Mayo Clinic del Minnesota? Ridere produce endorfina nel cervello e soprattutto allontana lo stress. E allora mi raccomando, ce lo dobbiamo ricordare di ridere. La mattina svegliamoci e ridiamo. Allora possiamo dire che come una mela toglie naturalmente il medico di ritorno, anche il sorriso, una bella risata toglie, insomma ci fa tornare il sorriso. Se vuoi ti potrei raccontare una barzelletta prima mattina. Non sei bravissimo per raccontare barzellette, quindi non lo so se mi fai ridere. No, però tra poco ci occuperemo naturalmente della nostra salute, perché è importantissimo anche mangiare bene. Ci sono dei cibi che ci fanno tornare il buon umore, lo sai? E sì, soprattutto se li combini bene, fanno ridere, ci fanno stare bene, ci aiutano insomma a sfreguliare un po', come dico io, l'ormone del buon umore. Bello, mi piace. Oramai in napoletano, e tra l'altro complimenti perché ieri la fiction è stata